GR Europa. Buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti a GR Europa. Oggi giornata dedicata alla plenaria, dunque il Parlamento europeo, come accade regolarmente, lascia Bruxelles e si riunisce nella sede storica, quella di Strasburgo. Da stamattina alle 8 l'agenda ricca di dibattiti, temi affrontati sono i più disparati, come accade proprio in occasione delle plenarie. Vi cito solamente i regolamenti sulla pesca, i regolamenti che riguardano gli alimenti destinati ai lattanti, ai bambini della prima infanzia, insomma un lungo elenco di incontri e dibattiti intorno ai temi sviluppati all'interno delle commissioni della plenaria stessa, tra i quali oggi si parla anche di sorveglianza degli Stati Uniti in internet e dell'effetto che questa operazione americana, questo scandalo possiamo ben dire, potrebbe avere sui cittadini dell'Unione Europea. Al servizio Prism, il programma del governo americano per raccogliere informazioni personali degli utenti delle maggiori compagnie della rete preoccupa l'Europa. Le rassicurazioni di Barack Obama ai cittadini statunitensi non si sono estese al resto del mondo e questa è una falla che non può che gettare un'ombra sull'Europa. Oggi il tema è stato oggetto di discussione in plenaria. Salvatore Iacolino, vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento Europeo. Il tema è estremamente sensibile, ha bisogno di cautele e di prescrizioni che sono assolutamente doverose. Le libertà individuali non possono certamente essere penalizzate da un canto, dall'altro occorre trovare meccanismi concreti per garantire la sicurezza. Da Roma ne ha parlato anche il garante della privacy, Antonello Soro. L'Europa non è prigioniera di un'illusione quando tenta di fronteggiare questi mutamenti e con la revisione complessiva delle norme in tema di protezione dei dati, che dovrebbe vedere la luce all'inizio del 2014, intende ribadire il ruolo centrale delle proprie regole, superando le notevoli resistenze che provengono da altri paesi e dalle corporazioni. L'Unione Europea, prima che su logiche di mercato, si fonda sui diritti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Diritti che ovviamente vengono dibattuti proprio nel contesto del Parlamento europeo, che vi ricordo è l'istituzione elettiva per eccellenza del sistema europeo, che vede le altre istituzioni appunto invece nominati. Dunque, giornate di lavoro nel Parlamento europeo, noi ci torneremo naturalmente a partire da domani. Per adesso è tutto, un saluto da Gigi Donelli. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.